Sprezzilana, le crude ritorne, se non trova mercede altera. Sprezzilana, le crude ritorne, se non trova mercede, mercede altera. Sprezzila alma le crude ritorte, se non trova mercede alpena. Sprezzila alma le crude ritorte, se non trova mercede alpena. Se non lascia, se non lascia amar. Herrscher.